lei veniva avanti asciugandosi le lacrime con lo strascico in affitto pesante più di una lapide. E quando alza gli occhi ancora umidi di pianto a incrociare il mio sguardo, ho capito per incanto che se gli angeli del cielo piangono così per i nostri peccati, un peccato non essere Aleister Crowley, e che non era per il damerino in fracca il suo rimè, aveva rotto gli argini ma per me. Ferma intanto predico e dichiaro, lui si guarda, torna attonito però ancora ignaro. Lei intanto si strugge appoggiandosi al suo braccio, mentre in petto sale e rugge un fuoco ardente come ghiaccio. Vuoi tu prendere quest'uomo come legittimo consorte, amarlo e venerarlo ora nell'ora della tua morte, insolube malattia, ricchezza o povertà, se tu vuoi che cosa sia, basta una parola. Le resta il silenzio sulle labbra appena un tremito, quelle labbra bianco assenzio schiuse in un fioco gemito, e in quel silenzio come di neve che dissolveva ogni cosa su di cadere dal buco un rosso petalo di rosa. E parenti in prima fila di già circola il sospetto, alimentato dai sospiri che le si gonfiano nel petto. Io con gli occhi fissi dentro ai suoi spiano le mani sull'altare, come a dire bella mia allora che vogliamo fare. Le occasioni della vita sai sono così, non siamo che servi del nostro domani, e c'è chi serve la patria e la causa, ti serve il Signore. Io per te voglio essere un prete aureo, un prete amore, un prete amore, dore, dore, dore, dore, un prete amore. Fortuna dei suoi occhi calò il suo freddo manto di brina e di rimorsi, l'inverno del rimpianto, e quelle sillabe che sulle labbra le aveva tremato come poi si staccarono una a una al vento e alla fortuna, a dire a me alla luna, sì lo voglio. Ma poi la gioia dei parenti, tanti abbracci e commozione che a momenti neanche Lazzaro dopo la risurrezione. Io intanto in disparte rassetto gli inginocchiatoi, alzo gli occhi al crocifisso e dico: te fatti i cazzi tuoi.